la spina nasce la rosa al vento, chiedo al padre chi è. L'età perpetua del randagio, l'età perpetua del randagio. Io parlo al vento che accolga la mia spina, io parlo al vento che mi baci e tenga lontani quelli che parlano lento. Dovunque sia.